Ecco qua, allora, buonasera a tutti, siamo in... Ti metti il cartello? No. Sì, grande, siamo in diretta streaming per la terza riunione della disabilità. Gentilmente Aldo, se mi riprendi un attimo, sì, che io prego, leggo un attimo, diciamo... Non ti preoccupare. Leggo un attimo per le persone, sì, che diciamo poi dopo sia da casa... Sì. Che verranno presenti. Vabbè, diciamo che anche diciamo queste due notizie tecniche, queste due notizie diciamo tecniche, queste due notizie tecniche diciamo che adesso dico, le si trovano anche nella descrizione della pagina disabilità di Facebook. Allora, in base diciamo alla... Che chiunque non la sa, questa pagina tu dai il link a chi ti contatta. Sì, e comunque è praticamente la pagina, si chiama, la pagina Facebook si chiama Disabilità e Dintorni Campania. Ok. Allora, nel codice di descrizione diciamo troverete le indicazioni per la tutela sulla privacy, quindi di tutti i dati delle persone.